stavo raccontando per quanto riguarda gli uccelli, che ogni uccello ha un numero, insomma. Perché a me lo dico? Già lo so già. Ah, sei una ragazza già male. È una cazzata finché sono cucine semplici. Quando sono complicati devi metterci la testa. Qualsiasi cucina tu, sono numerati, cosa ne so, il piccolo è 60, un esempio, no, ho fatto un esempio, adesso non mi ricordo i numeri come sono. Poi il grande più. Mi sembra che vada più grande al più piccolo. Io già mi rammento. Allora, prendiamo i fuochi normali. 50, 69 o potrebbe essere anche 70, dipende dal kit, e l'altro è 80. Sì, già è facile, dai. Ma li avrei posto io, tubo del gas glielo cambio io, dalla cucina, devo montarne il forno e poi c'è il tubo che passa sotto, la prima faccio appunto la mano. E a capa. Davvero? La vaglia di gioco. Lì sono tutti questi lavori, li ho sempre fatti. Ha già fatto pure che di guzzi di pesce, che di che vale la cannetta rotta. Poi sa posto che più di una volta hanno il vizio di chiudersi l'aria, gli la devi aprire. E quale altro? Quelle. Le vecchie, quelle di una volta. Già ho capito quale sei dicendo. Hanno le cannette sotto, hanno, ma molte volte succedeva che si chiudeva. C'è presente il fornellone. Se tu li chiudi l'aria, esce la fiamma gialla, esce. Perché? Perché non ha ossigeno. Se tu glielo apri, esce azzurra. Molte volte capitava così che qualcuno si chiudeva la cannetta. Si intasava così, No, non è che si intasava. Tu hai mai visto un fornellone? C'è quella finestrella che apre e chiude. Se tu non li fai passare l'aria, cosa succede, Daniele? Che non passando l'aria, esce con la fiamma bianca, gialla, con la fiamma gialla ti sporca le pentole. Ti fa, il nero ti fa, così è. Eia. L'hai mai visto il fornellone, quello che si usa per abbondire la begora, per fare la bumata? Già ho capito quale stai dicendo. L'hai mai usato? Usato in persona? No, ma già l'ho visto. Hai visto che c'è quello a fare? Se tu li sarri completamente l'aria, ti fate la fiamma gialla. Deve avere l'ossigeno, deve avere. Un po', se no non andrà bene. Cava. Aspetta, bianco un secondo, mi stanno chiamando giù, Andrew. Ehi, fai. Vabbè, non mi divisi. So che no, Giulia. È chiuso. No, è forato un attimino, io lo so perché dovevo fare una cosa, capito? Sì, ho capito, aspetta perché si stava andando a letto. Eia. Comunque io, di ogni ora esperienza lo stesso, so fare tante cose, ma tante. Tantissime anzi, non aver studiato, non so fare anche troppo. Io devi dare a fare. No, io, guarda, la verità, già mi applico a fare un po' di tutto, mi applico. Ma niente, non ci sapone manco lo dito in culo. Beh, bisogna applicarsi nella vita, altrimenti è un casino. Ma grazie a Dio già non posso lamentare, dai. Poi vabbè, quando non lo so fare, non ne faccio. Tanto per far danno e danno non importa. Sì. Ma alla fine bisogna anche vedere un po'. Lascia di lo baretto, me lo sono raccontato io della bicicletta, ne avevo mai smontato. Ho capito com'era e me lo sono riparato. Sì, vabbè, ma sono cazzati, chi siamo tu? Bello è sapersi di parlare alla televisione, un telefono, cose così, capito? Non l'ho mai fatto, ma tranquillo che se lo vedo. Se lo vedo imparo subito. No, non è così, Anto, sono stato anni e anni, non è semplice, no, lascia perdere. Bisogna saperlo smontare. Ti posso dire che è un po' difficile. il pane per il CD, siamo stati attenti, ci spacca in mano, no, non è così semplice. Ho già montato una TV, bisogna stare molto molto attenti. Cazzo, è difficile farlo, che lo faccio da anni, pensa, per uno magari come te che alle prime armi è difficile anche. Poi ci sono tante cose, non è solo la scheda, magari può essere un problema di LED. È difficile, va, fidati, molto molto difficile. Grappa, ho smontato la TV, ne ho smontato una lui. Che in poche parole cosa c'aveva? Che su Gassigardo di Rugugnardo di Sara era intelligente, mi rumuro invece di punizi i tasselli quelli belli forti, come ho fatto io, che non ne farà manca cannonate, no? Che ci ho messo i tasselli da 12, ci ho messo nel muro, no, fra poco chi si in plastica e fini fini ne farà dalla televisione in terra. Ti fai un piccione? Dipende dal muro, se metti quello chimico, se è forattino, quelli da ferro lo stesso, non è che rengono molto. Poi dipende dal peso della TV anche. Se il muro è buono va bene, ok, vanno bene anche quelli in plastica, quelli grossi, a voi che teni. Ah, non è buon qui, c'è roba. Soprattutto i noghi, voi. A Gioboccio che si grossi a Gioboccio. Chi si va più forse e forse domani che ne ho rampe perché a Maria non gli ho piazzato la tenda in terrazzo, ho messo quelli lì tassi, quelli in plastica con quelli viti, quelle che c'hanno la come si chiama, quelli viti grossi, la chiamano le 17 e vai due rapani a due vai. Già sono belli grossi, chi c'è? Cazzo, ne ha rampi, così tappi che ne ha rampi. Oh, io ho preso quelli, come si chiama, chi c'è in acciaio oggi ho bigliato, chi c'è un bel grosso, una volta che sono entrato in nero muro, chi c'è, manca cannonate, quando ne vado a togliere, poi tocca, l'ugoso tocca finito durante il muro, all'ampazzino, dovevo rimettere nuove, sono un bel forte, già. Ehi, ehi, ma che tasca, mal di testa, mi sono dovuto prendere prima un occhio verso le 4, occhi tasca, mi ha fatto mutare, niente, poi l'ho preso un'altra, quella, l'occhio normale, là, che c'ha una bustina più grandetta, grazie a Dio mi ha fatto bene, un mal di testa, la mascherina, quella mascherina di merda. Lo so, purtroppo, a me batti se mi arruinando questa mascherina. Invece il babbo lo sai cosa ha fatto? Si ha posto le tre file da posto, da una parete all'altra, e poi l'ha cementato, l'ha ripinto, non si vede più nulla. Le barre filettate? Sì, le barre filettate, da muro a muro. A nero rampi secondo te? No, come si è fatto bene, no? Assolutamente. Come te ha fatto? Ma anche il tassello chimico va bene. Allora, te lo dico subito come ha fatto, siccome la televisione è ben grande, è pesante, come ha fatto? Da una camera all'altra, dalla camera da pranzo alla camera da letto, da parte in parte, da pure cimentando, dopo che ha attaccato tutto. Per esempio, se voi lo mettete da me, sono i forattini, e come mettere il tassello chimico? Sì, non va andare fatti bene che cose. Chi te l'ha posciugato di tassellini? Una notte intendere, hai facciato tutto. E poi questi televisori pesanti, adesso sono leggeri i televisori, ma sono a piuma. Lo so, vabbè, come ti sia lui, il lavoro l'ha fatto bene. No, era un televisore nuovo, ti puoi immaginare. Beh, nuovo pesante, sono leggeri. Io ne ho uno da 55 pollici, vabbè, lo devo riparare quello, lo siete messo da parte per il momento. È una piuma, 55 pollici è grande. Sì, però lui, cavolo, anche se tu lo metti da 32 pollici, per dire, però vai dei tassellini, non manco tassellini, viti, da poco, roba leggera, è logico che te ne straccio dal muro, non vanno bene, vivo roba sostanziosa, vivo. Lo so, quello è vero. No, la pesa non è a pelle, non mi interessa. Chiede male sopra il mobile, mi sa. lascio un mobile in mezzo a metà, già è minore a casa. No, ho fatto un buon lavoro e so che non ne ho rampo. Con la punta da 12, ci ho fatto tutto. Vai, va tu, no, c'è di zocchi, no, che trento, no. Questo che mi ha messo, questo scaffaletto che c'è qua, questo è piattato bene, cavolo, è bello forte, massiccio. Certo. E c'è tu. Vediamo un po', Daniele, c'è rientrato. Daniele! E vado a dire che Gaetane. Sempre là, là, là. Ma dove devo andare, là o qua? Sto prendendo questo ragazzo che è morto. Sa di che cosa, tu? Non si sa cos'è, ma questo da... Mandia. Care. Bancaria, è morto. No, non lo conosco. Allora, è giovane anche. Allora, è un piacino. Molta gente sta morendo, cazzo, più giovane, troppo. Incidente. Morti così bianche, cazzo. Vengono i morti bianche, così si accascia in bocca e basta. Un bel casino. Da poco stesso un incidente puro, mamma mia. È un casino, Anto. Un casino. Chiappa. Dico che secondo me avevo più pratica e disciplina, a me c'è il gatto di guizzi, no, non è che mandano, sai che c'è cose strane, no. Allora, secondo me ci vorrebbe qualche altra cosa, no, non è possibile, la gente ce ne frega troppo. Mi visto, allora, militare muore per arresto cardiaco ad Augusta, il giorno prima si era vaccinato, 43 anni. Ma non è chissà cosa è strana, no? Il vaccino, arresto cardiaco. Io sto sentendo un bel di casi, Io ho paura a vaccinarmi, ti dico la verità. Tutti abbiamo paura, chi più chi meno. No, troppi morti si stanno sentendo. Quando li vaccinano si sentono male, cazzo, e muoiono. Cosa vuoi che dica? Amici LS. Domani mi arrivo allora. E domani alla consegna spirito nove. Ma funziona più di cosa? Si sta? Cosa sta funzionando? Aspetta un attimino. Sì, sono troppo alta. La cosa va bene. Ok. Io me ne voto di questa cosa. Non si sa mai che per mangiare secco. Vabbè, diciamo che magari per i più anziani è, come si dice, più pericoloso, ecco, chi ha patologie. Ma non per un giovane. Eppure l'uomo, cioè poi bisogna essere per quello. Ma lei aveva dei problemi di salute, forse. Io mi hanno reginicato, non ho fatto vedere uno che si sente sumare subito, gente, ma secondo me quella cosa c'è qualcosa che non va, c'è. Lui lascia perdere, vai! Una volta ne ho fatto vedere una diretta, non ho fatto questa cosa, la giornalista si è collassata. Quindi questa cosa, no. Tanto, se vuoi lavorare sei obbligato a farlo. Andiamo che la ghigina, andiamo, la vita è la mia. Che la vita è la tua o no, devi sempre, devi farlo perché altrimenti al lavoro non ci puoi andare. Se mi vuole così, se non si abbiglia in culo, me ne so che in casa, maggio di morire. Ah, Daniele si è perso. Ma è inutile, sai, se io sento tutte queste cose mi devo vaccinare. Però non esiste. magari era allergico, cosa ne so, oppure magari aveva patologie, non lo so. Se uno è sano, non c'ha niente, va bene. No, io dimmo paravata a voi. Tutti temiamo, chi più chi meno. Poi questi anziani lo stesso, magari è più pericoloso. Carusa. Chi è? Tu che cazzo ci vuoi riparare? Beh, Daniele. Lui, no, ero giù. Giù? Sono sceso dal soppalco. Ci ho fumato la mia sigaretta. E poi ci ho preso un goccio di caffè. Ma ancora fumando stai? Cazzo mi ci vuoi darvi la palla? Magari tu, magari, no, no. Tanto dai, non tantissime, perché adesso me le sto girando io, quindi non neanche se sono le porte anche più appresso. Che è avanti? Che è pola, avanti? Boh. Tu l'hai sentito? Ciao agenteggio. Ola. Quanti l'ora? No, già lo sento, non so chi sia. Ah, tu sei. Non ho capito, mi pareva Edo. No, 9:20 era qua il segnale, insomma, era abbastanza forte. Però non so chi sia. Vabbè, chi vuole entrare, già siamo qua. Non lo so. Avanti. Avanti. Vabbè, appena avremo stanotte. Cava. Mica dopo domani dice che manca l'acqua, però non so in quale zone. Centrale di Pisa, al monte. Sa che sta di vecchio. Sì, e quando mai? L'hanno scritto nel gruppo di scuola di mio figlio. Dalle 15 in poi dice che manca l'acqua. Non so chi sono di lavare, gnognò. Però le bollette le vogliono ogni mese, insomma, quando arrivano le vogliono pagare. Ma a tu a 140 grammi mai mangiato, cioè? Certo! E si mangia bene? Non bene, no, di più. Aspetto che una doppia, cioè... Dunque non sbaglio di ordinare una porzione per te e una porzione per Marina, perché sennò vi crebbettimi. E come sono i prezzi? Accessibilissimi. Ho capito, ci vado, venerdì ci vado a cena. E sai, sono intorno, ho mangiato anch'io lì, ma sono piatti. Ma sui, cavolo, ci mangi in tre tranquillamente. Il piatto te lo fai a ponte. I prezzi, sì, come hai detto tu, sono accessibili. Sono ai 7-8 euro, poi dipende da quello che vuoi. Ma mangiami, Ollu. Mi devo fare il bagno di ordinare a te, a lei, me, se no ti ne c'è una cosa che non ve la fa mangiare a tiro, ti tocca buttarti fino a casa. Me. Che busciacca me lo pongo? Break. Avanti il break. Buonasera a tutti, Gianni di Turun. Cappa. Buonasera Gianni, di solito noi ne prendiamo un vassoio per me e per Sara, mangiamo. Gianni, ma hai detto poco fa? Quando mi stava normale. Ma hai detto poco fa già? Dove? Ora, e tu? No. Stai fischiando, come no? Catteni due. Ma dove? Qua. Avevo su 40 io. Ehi, addirittura mi sbatti da 40 qua, ma... Vabbè, dai, comunque non stai uscendo bene. No. È strano, no, a tu? E suga, no, non era uno sbatto, era qualcuno proprio qua. Ma vabbè, non è problema. Ma non c'avevo ricezione, c'avevo il coso, lo scorcio chiuso, non sentivo nessuno, per quello che forse anche il Clari, per un apparecchio nuovo, questo è... Lo stavo tutto quanto mettendo a posto, va. Capa. Va bene, già, va benissimo. Anche se lui non l'ho fatto per male. Ah, ci mancherebbe. Magari dai, Ducchenni non se ne comprendi nulla e succede. Perché è logico, l'apparecchio se ce l'hai oggi, per dire, non sa le funzionalità, può capitare che succeda a quello, ma ehi, nella stessa onda. Ehi, avanti tu. È giusto, gli ho chiesto se era lui, però la cosa sì, sembrava lui, vabbè, forse magari può succedere, no, non è successo niente, ci mancherebbe. Ci mancherebbe. Avanti Daniel. Buonasera Gianni Gate, buonasera. Ciao Daniel, ciao, ben sentito. Va. Cava, cava. Cava. Vabbè già, l'appoggio. Sì, ragazzi. Ando, sto provando adesso, dai. Già va bene, già sembra bello. Ora ho messo l'amplificato, come va? Benissimo. Guarda che non me l'ammento come intera. Non te l'ho mandato. Meglio di prima già, non tocca se. Ci devo trovare. Luca, ne hai di quelle vittine piccole per i microfoni? Cioè? Che si perdono sempre. Sono finotto. Guarda che ogni tanto manca di trasmissione, Millu, ma già. Cosa? Che ogni tanto ti manca la trasmissione. Dipende sempre come abbiamo il pulsante del microfono. Questo microfono ti entra nel dito il tasto. Cava, cava. Ma per adesso già funge, dai. Questo è... Cos'è questo, eh? Il Royce, lo conosci il Royce? No, non me l'hai mandato come apparecchio. Ehi, ce l'ha avuto il Royce, ma quello da base, con tre strumenti a sfondo verde. Esatto, è buco verde. Ho capito. Già va, cosa c'ha l'orologio in alto sulla destra? Ehi, Giovanni. Non me l'hai mandato già. Guarda, se cerchi c'è anche su internet, mia, tu. Capa, non me lo ricordo proprio com'è Royce, boh. Stazione base rettangolare. E c'ha tre strumenti e sotto c'ha la manopola. Le manopole di regolazione, dai, che così che cose. Cosa va? Lo rosmetro. Mi sa di sì. C'è anche il rosmetro, no già. Se mi dici che ha tre strumenti, ce l'ha per forza. Allora, lo strumento è il rosmetro, un attimo, un altro e un altro power e ti dà anche segnato. Vedi che è così. Perché poi ci sono altri modelli di quelle del Royce, diciamo. Mi ha trovato uno, però questo è digitale. C'ha tre strumenti a sinistra, giusto già? Esatto, sì. Poi c'ha USB, TX, USB, eccetera, eccetera, vicino agli strumenti. I tasti dove metti praticamente l'MB, eccetera, eccetera, sono tutti quanti sulla sinistra. E poi c'ha l'orologio, tu metti sia l'orologio che i canali, dai. L'orologio cosa ce l'ha? Sinistra, giusto? Cercando me ne è apparso uno dove c'è l'orologio in alto a sinistra, gli strumenti sulla destra, la manopola del canale al centro e poi in basso c'è tutte le varie manopole di regolazione. Non la manda che la bindo, perché io non me lo ricordo proprio. Perché poi c'è il modello che c'ha... Vabbè, questo è più... deve essere quello più accessoriato, questo. Che c'ha i tre strumenti in alto a sinistra e i canali sulla destra, che c'ha un display rettangolare lo stesso. La manopola in alto a destra, tutta a destra per i canali. Mulane, non me ne ammetto, me lo metto. Riesci a vedere. Cava, riprendi Lugarie. Che tu hai un baracchino, che ti sei dentro io, no? Non me lo ricordavo più io questo apparecchio. È possibile che ce l'ho anche avuto in passato? Ah boh. Già, non me lo ricordavo più quell'apparecchio, la verità ti dico. Sono passati tanti anni. Ma ti piace? Ma è bello, già va bene. Già funge, già funge. Se sono radio trattate bene, già, già fungono. JFK, 601 modificato corso, che ma. Vedi, te ne sono conto. Io avevo anche il Cobra come radio, stazione fissa. E non solo, me li pagati pure la stessa disposizione. Vieni in pagliaccia anche. Sono da combattimento, so. Alla fin fine, so a chi gli piacciono molto. Infine, l'unico già. Non me la comprerei mai io. Cioè, in passato già un po' per sabbazia, ma vabbè, per me va bene così. Beh, alla fine sono troppo costosi, ma la carità. Io vabbè, quando ero attacco faccio un paio di modulate lì, 45, dando una giugana. Sennò già rimane in più. Un tipo mi voleva dare un 48 normale in cambio del mio. Vabbè, ma ormai sono una persona educata, se no ho detto, ecco, vai quelli della pittorra. Qual è il prezzo del Colt? L'originale Colt, quanto li stanno vendendo? Non ho capito, Daniel. Ho detto, guardati il prezzo di un baracchino, il Colt, l'originale, non quelli modificati di scheda Colt, il Colt originale, guarda quanto lo vendono. Ho sotto 100, 1000 euro, 1200, non so. Vabbè, qui c'è la pittorra, vai. Quello è proprio il vero Colt originale. Sì, lo so. Mi prendete un attimo, arrivo su. Andava bene, da lui lì. Vai, riprendi, tu. Cappa. No, ma quelli belli non ci sta più, ma stai scherzando. No, ma per prendere una macchina a quei prezzi, Antu. No, lascia perdere, capito? No. Devi essere un pazzo, veramente, a fare una cosa del genere. Già, lo so, già. Cosa, Antu, hai tu sentito? Ho detto che già lo so, non va bene, no, questa storia qua. Troppo caro, troppo. È una follia. Vabbè. Peggio perché se lo vuole comprare. Lo voglio via. Riprendi Gianni, a chi sei? Già ci sono, ma sto facendo cose. Vabbè, cerca di sistemare quel microfono. Sistemalo. Ho sistemato, ho preso la vittina piccola, quella piccola che si mette nell'attacco. Capo, ma non dovrebbe essere in casa? E allora dove? A casa l'ho presa, ma non si trova la cosa da massa, sono talmente piccole quelle vittine. È un casino, già si troverà, ma uia. Capo, già... La ciappa già si acciappa, bisogna avere un 10 CDVD, ma è proprio un minore. Poi quando hai risolto tutto appare per magia. Ma queste vite qua sono un po' difficili anche da trovare, non sono facili, dai. È un casino da trovare. Lo so. Mi chiedi a Luca quanto le ha perso a tutti. Magari mondo in terra la ciappa. Ho provato, ne avevo tante altre, ma sono più piccole, sono più piccoline. Io proprio non le odio quelle. Tu l'hai vista la mia stazione notturno? La stazione notturno? Te l'ho mandata con le bici bus per la parecchia. Ehi, hai venuto dalla parola di Natale, no? Che? Ma cosa avete? Di notte questi qui sono luci riposanti, li ho messi per quello. Manco più allegri, non andare bene. Vedi quelle psichiatriche gli altri visi. No, quelle rimangono quando le radio di fra. Oggi chi ciacca. Franco è entrato, Franco California. Non ho sentito per niente. Sto entrando. Beh. Sicuramente non ha gara. Mi gioco dormendo, mi gioco. C'è un po' di stanchezza questi giorni. Con motivo che c'è la stanchezza. È motivato. Lo so. Tu voglio che vai, così sa. Ma oggi non abbiamo fatto un granché. Mi sono anche addormentato un po' in macchina. Ok, ho molta stanchezza, ho stress, mi capito? Ma c'è la cosa che accumuli durante la settimana anche? Sono stressato e poi c'è un bedore, insomma, capito? Un bedore, purtroppo tocca farlo, se vuoi mangiare ti bisa un colpo di guru, a me non mi ritiro. E dai, vici, sono 13. Magari, non c'è più uno amaro, E tu sei poco che lavorassi, allora pensa che lavora 42 anni, 38 anni, vedi che si travagli, A chi è? Capito. Chi? Capo, buonasera, Capri 2, sei basso, sei, di segnale. Però se non lasciate parlare non si sente niente, cosa è successo già? Ma magari te l'hanno anche qualcuno di disturbarvi, cosa ne sa? Vabbè, dai. Non sei uscito già. Vabbè, ti hanno detto qualcosa per le radio che non eravamo ora. Va bene, già, chi è rimasto? Capo, sono rimasto io. Mi pare che c'è anche Daniele. Ciao Capri 2, buonasera. Sei basso, sì, stanotte. Io adesso non so che cosa sto usando. No, dove si sta facendo base? Con gli altri strumenti, con la... Hai l'altro... superiore ce l'hai in metallo. No, c'ho la statica, diverso attacco questo qua, no? Posso mettere il tanner, ce l'ho, c'ho super seeder kick. Super seeder kick. C'è Daniele, ci sono. Cava, ci sono. È che a Gianni lo sento in mezzo al QRM. Buonasera Gianni. Anzi, Capri 2. Parlando già. Sì, Daniele. No, ascolto bene. No, io te lo voglio andare a Lido. E dove vai a abitare? A Sassa? Aspetta Gianni, poi riprendo da me dopo. Ciao Gianni, Capri 2, mi ascolti? Luca, mi ascolti? Sì, io ti ascolto benissimo. Segnale, vabbè, c'ho lo Smith secco, ma ti ascolto bene. Daniele, è strano che non lo senti, Daniele. Non lo senti per niente. Io lo ascolto, Lu, però c'è il QRM alto, capito? C'ho il QRM a 5. Ah, ecco. Aspetta a parlare. Cappa. Ora controllo così Gianni, come ti sta arrivando lì di radio. Ho capito, va. Avanti, bomboli. Bombolo. Mi sa che Antonio ha fatto fine alle trasmissioni. Ma Capri 2 mi ascolta a me? Sì. Ho capito solo che mi ascolta, così è. Sì che ti ascolta, basso ma ti ascolta. Gianni, a me come mi ascolti, Capri 2? Mi ascolti bene di radio? Ma non intendi più. Capri 2. Ma non era usi Capri 2? Amuros. Capri 2, come mi ascolti di radio, bene? Ok, dai. Dai che te l'ascolto abbastanza bene. Segnale che ce lo smette secco. È Amuros, Daniele, capito? Avanti, Gianni. Daniele, ti ho conosciuto tuo padre all'epoca. Sì, già me lo ricordo io a Capri 2, sì, quando modulava anche lui, sì. È strano però, vabbè, magari è una negativa per me. Il segnale sì, è basso, perché io c'ho il QRM alle stelle in questi giorni. Se avessi avuto leggermente un po' più di radio, andava anche bene, riuscivo a tirarlo fuori, perché lo sento, ma a tratti, capito? Basso, ma è percepibile però alle volte. Chiudo, ciao a tutti! Ciao Gianni, come si chiama il padre? Andrea Doria. No, negativo. Adesso non mi ricordo com'è, non mi ha attivo il tuo padre, Daniele. Lui era Regolo. Ah, Regolo. Allora non ci hai sbagliato persona. Luca, io sto chiudendo, dai, saluto a tutti. Ciao Gianni, che? Alle prossime. Ciao, già, buonanotte. Pure io vi saluto, sono stanchissimo. Buonanotte a tutti in circolare, dai, grazie della chiacchierata, grazie di tutto. Ciao, buonanotte. Ciao Capri 2, stai chiudendo, ho trovato, lo sento a Capri 2. È basso, basso, basso, basso. No, io lo sento benissimo, vedi, dipende dalla posizione, basta un piccolo varco e rompa le palle. Vabbè, ciao Antonio, anche a te buonanotte, e alla prossima, ciao Capri 2, alla prossima, avanti Daniele. Ciao Antonio, ciao Capri 2, se mi ascolti ancora, le prossimine, dai, riprendi lui. Ma in genere lo sentivo sempre fuori, cioè lo sentivo abbastanza, evidentemente trattando in qualche cosa che non mi consente di sentirlo per la perfezione. Ok, buonanotte. Ciao Anto, e anche mi ricordo che all'epoca lo riuscivo ad ascoltarlo, dai, non fortissimo, però insomma la melodia era più comprensibile, più forte, capito? Ehi, ai, anch'io mi ho 10 minuti, dopo un attimo fammi di roba, mamma mia, tante cose, mi devo dire di qua, ogni santa di, per carità, vabbè, Daniela, tu non stai più lavorando nell'ambulanza, no? No, Lugarie, siamo fuori dal giro. Da la sera ti sei ritirato? Sì, guarda, dopo più di 13 anni che c'ero, ho detto, boh, basta, stop, fine le trasmissioni. Ho capito, ti sei arreso, no, non ce l'ha fatta più, ma anche tua, la tua 25. Sì, lui, che non stava facendo più vita, cavolo, è diventato troppo. Ti danno questi 300 euro, non so per che cosa, se non ho letto bene Daniele. Devi andare su Facebook e scrivi Comune di Sassari e poi scendi nella pagina, giù c'è scritto reddito di cittadinanza, c'è scritto tutto, informati bene a vedere. Prova se ti viene bene adesso. Adesso controllo al volo. Sì, perché a me me ne manda il tutor, perché ho fatto il patto di servizio, di lavoro, da come cavolo lo chiamano loro. E in base a quello poi mi manda le varie proposte. Anch'io ho fatto il collocamento, quello cosa c'entra, però non me ne hai mai chiamato. A me ogni tanto mi scrive, la chiamo, mi chiama, bene o male sono sempre, non tantissimo, ma insomma, sono in contatto, dai. No, io no, sono sincero. Tu come hai detto di guardare sul sito di Facebook, di, come i disastri, così è. E tu Mari vai a cercare una persona, invece cerca una persona, scrivi Comune di Sassari. Una volta che ti esce quella cosa lì, metti mi piace, che poi segui, e poi abbassi un po' le pagine e trovi il coso del reddito di cittadinanza, controlla a vedere. E tu magari sei più esperto su queste cose, io non ne comprendo nulla. Guarda, sto guardando, ti ricordi quando è stata pubblicata? Ecco qua, progetti utili alla collettività, questo è il comune e terzo settore. Reddito di cittadinanza? Sì, c'è stato il reddito di cittadinanza. Il 1° marzo mi sia stato pubblicato, scade il 15, se non mi ricordo, una e una il 28 mi pare, o il 25 e il 28, controlleggi bene, vedi un po'. Sì, le domande possono essere presentate entro il 26 marzo, sì, anche di questo ho parlato l'altro giorno con la tutor, però mi ha detto che questi, diciamo che in questo progetto, non so se si chiama Pucco, cosa del genere, vengono messe le persone più disagiate, infatti mi ha detto che io forse non ci rientro in questa categoria. Sì, proprio PUC si chiama, esattamente PUC. Capito. Perché mi sono già informato, infatti mi ha detto, ma io ci rientro in questo progetto PUC che ho sentito l'altro giorno, stavano parlando, l'altro giorno, vabbè, adesso è passato ormai qualche settimana. Però mi ha detto no, è solamente per determinate categorie di persone, quelle più disagiate che rientrano a fare questo tipo di attività, diciamo. Ho capito, capito. Boh. E allora niente. E vabbè, poi per quanto riguarda la mia graduatoria lì al collocamento era, non dico, 65esimo o 69esimo, non mi ricordo. Ora me l'ho mai chiamato, perché tanti hanno rifiutato. Sanno quelli che percepiscono la lista di cittadinanza che per andare a... dice che me lo fa fare a spaccarmi la schiena o cosa, e poi vorrei fare una butta da capo, dicono, ma meglio che prendo quel po' che non mi spacco la schiena. Lo so, purtroppo a me non me la futti, magari ci mi chiama, magari. Magari sì, Lu, perché poi loro vedono anche la tua buona volontà, perché queste cose, cavolo, ti ho segnato, il tuo nero su bianco. Perché poi si è a contatto anche con l'ufficio del collocamento, loro sanno, poi dicono, per me non hai fatto questo, per me non hai fatto quell'altro. Io guarda, tutto quello che mi sta mandando questo, se c'ho i requisiti, sto facendo. Tanto lo legge anche lei, lo legge, quindi poco da scappare c'è. Infatti, come hai detto tu, nero su bianco, esattamente, poi diventi mandrona, magari ci mi chiama, ma rimango impegnato. È un casino questo, un casino. Poi arrivi a casa, stanco al lavoro, poi ti riposi, poi domani devo andare al lavoro, e così bisogna fare gusti, perché se stai non vuoi fare niente ti annoi, che cosa fai? Ti stanchi più di lavorare, capito? Infatti l'altro giorno lei gliel'ho detto quando era al telefono, che c'era quel progetto sul magazziniere, giù a Porto Torres, poi c'era autista magazziniere, quello lì volevano il furgone loro. Poi scorrendo nella pagina gli ho detto, guardi che adesso mi è apparso nella pagina, ho detto come manovale, questa azienda sta cercando manovale perché va tutta a codice, non c'è scritto chi è. Guarda, questo me l'ho perso, aspetti che controllo. Quale pagina corrispondeva, dice vabbè da 2 alla 2, ha detto a me la seconda pagina, a me risulta la terza, vabbè questo qua di Sassari, mi ha detto sì, guarda che questo qua di Sassari, ah bene bene, ha detto adesso sto facendo anche la candidatura a questo, ah mi fa molto piacere, dai bravo bravo, continua così, mi fa, e adesso mi ha mandato questo da macellaio. Ho capito. Vabbè ce n'è forse Daniele, magari qui finché uno ce la fa, questa Dio ancora ce la fa, cioè anche se c'è un po' la schiena messa male, capito? c'ho la schiena un po' messa male, un po'. Quindi tanto mi si blocca, devo stare con questa, col Voltaren, e poi la forza di occhi, un casino, per carità. Infatti avevo fatto anche la vista per la schiena, devo fare fisioterapia. E al medico, siccome poi l'ho detto, ma se io faccio queste 10 sedute, che poi non me l'ho mai chiamato lì al Conti, mi passa questa cosa. Lui mi ha detto di sì, me l'aveva garantito che mi passava. Boh. Ti già passa, però c'è sempre di ciò che ritorna. Capito? E piano piano lui. La scheda è lunga, da far ripassare i dolori. Non è così semplice. Però poi va male, tra punture e cose, fisioterapia già va bene. Sì, Dani, ma le punture ti distruggono, capito? Non è buccia di gioco, Lo so, non è che devi farne chissà quante. Fai il ciclo e poi ci vorrà anche un po' di fisioterapia, un po' di... magari, insomma, un po' di palestra, la roba che ti tenga un po' i muscoli in allenamento, capito? Lo so. Già lo so. Un casino nero. E a me ogni tanto mi si mette in moto queste scosse che mi vengono qua, brutto. So cosa vuol dire sederti e non riuscire ad alzarti subito. Ti trovo la posizione, se no ti vengono queste scosse e non ce la fai, Ero così, manco dal letto. Il mio aggressivo a Pisamini. Infatti, quando devo fare qualche peso, cioè un lavoro pesante, di spostare qualcosa, sai, no? Mi metto la fascia, prima mi metto la Voltaren in pomata, poi questa fascia, un po' riesci, però è un casino, Dani, è un casino, guarda, lavori male se devi fare un lavoro, male. Lascio qualcosa anch'io che ne soffro, lui. Già lo so, cioè quando come mi inchino anch'io resto bloccato, ma inchionata la posizione, prende anche il respiro, mi prende, sembra che ti stiano soffocando. Tu quanti anni hai, Daniele? 40 più 1 tra un po', ad agosto, dallo 0 passiamo all'1. Io ne ho 6 in più, io ne faccio 47. Io sono già un bel po' di anni così, perché da ragazzino ho fatto lo scemo, sai, con i pesi, sacchi di cemento da 50 kg, sacchi di farina da 50 kg, e fai così, e fai colà, e mi sono cancarato. Già è così, Lugarie, già è così. Va bueno, Lugarie, dai, io fino alle trasmissioni, sono già alle 11, domani devo scendere anche dal Farima con la 25. Visita lì. E va bueno. Sì, Daria, ci sentiamo domani, se coincide, se no alla prossima. Ciao, buonanotte e saluti in casa, ciao. Sì, grazie, cari contraccambio al centro, dai. Saluta anche a mamma. E va bueno, dai, buon tutto, cari, a domani se coincide. Buon proseguimento e buona nottata. Sì, grazie mille, ciao Daria, ciao. Ciao.